luoghi comuni di Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti. Oso uscipsio. Cosa? Oso uscipsio. Oso uscipsio a tutti, cari amici di... Cos'è? Radio Isipsa. Radio Isipsa, che credo sia Radio 24. Questa è la trasmissione che, come dire, prova a sfatare i... Kuntunzam. I Kuntunzam, ovvero i luoghi comuni. Ma sono robe da mangiare. State Kuntunzam. Ascoltando Off Topic. Allora ragazzi, la puntata di oggi è tutta tradotta in coreano. No, non me ne frega nulla. No, mi no, preghi? Mi no. preghi? Ok, allora io scrivo ti prego. No. E faccio no, così. No. E faccio così. Alessandro. Sepae? No. Tu mi preghi? No, così no. Però ho detto ti prego. Quindi Alessandro, comunque ti prego, dammi una mano. Dammi una mano perché io non lo faccio. Mi sta faccio divertendo più. Tantissimo. Allora, tra l'altro, scusate, la prima volta che il coreano è entrato nel, come dire, nella nostre vite, almeno nella mia di Alessandro Longoni, è durante la famosissima serie TV Boris, perché se ti ricordi ad un certo punto loro traducono, credo da una serie coreana, il mistero dell'anello del conte. Ah, è vero, allora quel passaggio non me lo ricordo, però hai detto bene che la Corea è entrata nel mio mondo percettivo con una serie TV, ovvero con Lost, che su questa isola dove appunto si era schiantato l'aereo c'erano due personaggi coreani, li sentivo in lingua originale e la loro lingua mi aveva sedotto, però... Però non l'hai studiata. No, ma no, figurati. Non lo so, sai, uno si, si prende bene. Comunque, perché stiamo parlando di Corea? Perché oggi, ragazzi, durante la riunione di redazione, dovevamo parlare di luoghi comuni sul mondo asiatico. Okay. Basta! Guarda che perché non è stiamo parlando di Corea? Tu hai detto, perché stiamo parlando di Corea? Io voglio farmi capire dai nostri amici in Corea perché stiamo parlando di Corea. Bene. E perché stiamo parlando di Corea? Dillo piano che io devo scrivere la risposta. Allora, come sapete, noi siamo il programma dei luoghi comuni e da bravi esperti di luoghi comuni, il primo luogo comune è che gli asiatici sono tecnologicamente più avanzati. Ci siamo annoiati solo a pensarlo, questo luogo comune. Era un po' dura da... È da boomer, è roba che... Cioè, potevamo lasciarlo a Enrico Pagliarini, insomma. No, no, cioè, no, non si può dire questa cosa di un altro collega. Non ci siamo annoiati, Riccardo, ma ci siamo... Chi? È morta? Ha avuto un mancamento? È solo che io ho scritto annoiati, ragazzi, nel traduttore. Bene, è basta. Così. E quindi ci siamo divertiti con la redazione allargata di Twitch e Telegram a trovare il luogo comune giusto per il mondo asiatico, anche perché l'ospite di oggi è proprio in collegamento dalla Corea del Scusate, Sud. Scusate, intanto su Twitch Ilaria, una nostra follower, ci scrive: in realtà Beppe sta dichiarando guerra alla Corea del Nord. Ecco, manca solo di quello. Spero di non far succedere incidenti diplomatici. Ma ci collegheremo anche con la Corea del Nord con un ospite speciale, ve lo dico dopo più avanti. Questa è una sorpresa. Allora, il luogo comune di oggi, cari amici di Off Topic, qual è? Dillo piano. Sì, gli asiatici non reggono l'alcol. Mi sembra di parlare con mia nonna. Lo so, però invece, io devo scrivere piano col telefonino perché sono un boomer. Dai, vai, scrivi. Chiaro, abbastanza complesso, devo dire. Allora, vi ha acceso molto questo luogo comune perché ci sono arrivati un po' di WhatsApp da parte dei nostri ascoltatori che fanno parte della redazione allargata. Anche se io li chiamerei, come dire, più messaggi vocali. Basta! Cioè, degli unsamdici, o quello che ho detto, insomma, che non lo so. Ah, e il primo WhatsApp che ci è arrivato è quello di Windark. Vai. Gli asiatici non reggono l'alcol semplicemente perché geneticamente esprimono poco un enzima a livello del fegato che si chiama alcol deidrogenasi. Questo enzima è indispensabile per l'eliminazione dell'alcol dal sangue e quindi praticamente loro per smaltire l'alcol hanno molto più tempo e quindi alla fine bevono una birra simbriana. Ma si è screcciato da solo. Scusate, ultima cosa, poi metto via questo traduttore, però è importante. Te tu sei lì, ti trovi in Corea, sei disperso, ad un certo punto non sai, vuoi comunicare con loro, non sai come si dice enzima, sappi che si dice così. Gesù. Perfetto, Gesù. Grazie. Si dice Gesù. Oddio, sai che non l'aspettavo? Si dice Gesù. Gesù è un enzima. Non è basta. No, non è così. Comunque, posso dire una cosa? Abbiamo fatto una roba da boomer pazzesca perché noi parliamo di asiatici come se fossero un blocco unico. Sì, esatto, okay? Cioè, parliamo di una popolazione di miliardi di persone e noi facciamo ovviamente tutto un erbon fascio. Ma d'altronde siamo il programma dei luoghi comuni e delle chiacchiere da bar. Quindi. Ma adesso il nostro ospite ci darà una mano a sfatare questo tutto. È vero. Un gocciolà. No. Vedi che cantano in coreano, Riccardo. Beh, sì, italiano, sì, no, certo è vero, punto. È vero. No, no, no, non arriva l'italiano. No, è perché stavamo dibattendo che l'ultima canzone dei BTS, che si chiama Dynamite, sì, che è anche nella pubblicità di un famoso cellulare che vedete in televisione. Ma cosa fa? Fa la marchetta? No, ho detto, non mica ha detto la marca. È tutta in inglese. E quindi mi mancava questa cosa di sentire cantare in coreano. Ma certo, quindi, ma vuoi proprio sentir parlare in coreano, no, Riccardo? No, sono no, prontissimo. Beh, guarda che te lo lancio via quel cellulare lì. Allora, vi abbiamo fatto sentire un pezzo di K-pop perché l'ospite di oggi è Marco Ferrara, in arte Seul Mafia. Ciao Marco, che ci parla direttamente da Seul. Ciao, ciao, ciao. Ciao Marco. Buonasera, buonanotte. Buon tutto. Tu hai appena scritto un libro che si chiama Tutta colpa del K-pop, per De Agostini, ma la prima domanda che ti voglio fare è, in realtà, è vero che gli asiatici non reggono l'alcol, Marco? Allora, qui sono molto più avanti di quello che voi pensate, nel senso, sì, è vero, diventano rossi dopo mezzo bicchiere, ma qui ci sono delle bibite apposta per bere e trincare come non ci fosse un domani. Infatti, non so se lo sapete, ma i coreani bevono il doppio dei russi, cioè qui c'è la cultura dell'alcol, che tipo vanno a bere ogni sera e si rotolano, cioè li vedete tipo strisciare alle 10 di sera, che vomitano su loro stessi, è perché qui trincano di brutto. Ma se bevi queste pozioni che loro vendono ovunque, in realtà il giorno dopo non hai l'hangover. No, ma aspetta, questa male è una notizia, cioè questa dovrebbe essere messa sui giornali. Vabbè, cioè, ragazzi, esiste una bibita per l'hangover? Vabbè, ma ragazzi, ma dove vivete? Esiste da 30 anni, ma cioè, lo conoscono tutti. Ma io cioè non l'ho mai bevuta. No, non sapevo neanche io. Io sapevo dei post, cioè una volta che hai bevuto, poi ci sono delle pozioncine magiche, le trovi in Inghilterra, meravigliose, nelle farmacie, che ti danno il boost per ripigliare il giorno dopo. Ma le bibite che hanno già in sé il post hangover è meraviglioso. Non lo sapevo sinceramente. Sì, sì, loro sanno già che staranno, cioè che berranno come non ci fosse un domani, quindi la bevono prima e ti protegge. Marco, cioè, però scusami Marco, però gli effetti collaterali di ste bibite io le voglio sapere. Si saprà tra 10 anni, come per i vaccini. Cioè, niente è gratis. Niente è gratis. Voglio dire, se un terzo braccio. Capito, diventi uno zombie, non lo so, c'è una roba così. Senti Marco, allora tu ti sei trasferito in Corea circa 3 anni fa. No, aspetta, 10 anni fa, adesso non mi ricordo esattamente perché ho 8 anni fa. Una media ponderata, esatto. E tu ti sei trasferito, diciamo, con la valigia di cartone, come si diceva ai tempi, come faceva Pozzetto. Col filo di spago. Esatto, anche col filo di spago, mi piace questa. No, però sei andato lì con un sogno in testa, sostanzialmente, diventare una star del K-pop, giusto? Mm-hmm, esatto. Ma perché è venuta questa idea? Perché? Scusami, come mai? Però, ma perché no? Scusa, invece, no? Allora, io mi sono diplomato in teatro musicale, no? Quindi volevo ballare, cantare, e vedevo che in realtà non c'erano molti sbocchi, almeno ai tempi. Facevo musical, volevo fare musical, ma c'erano tipo 2 provini all'anno, anche ero appassionato di K-pop, ho detto, sai una cosa, incomincio a fare provini. In realtà i primi provini che ho fatto erano in Europa, quindi non sono partito subito per la Corea. Mi hanno preso per fare X Factor coreano, però ho fatto i provini a Londra. Provini a Londra, quindi, esatto, sì. Esatto, quindi sono andato a Londra, mi hanno preso, poi mi hanno spedito in Corea prima per fare il coreano. Che poi, detta così non è bellissima. Spedito in Corea è un'espedizione. È andata effettivamente così, mi hanno preso di forza, mi hanno spedito. E diciamo che poi da lì ho visto che magari, insomma, sai, prima sogni e basta, poi quando incominci ad andare in televisione dici, ah, però magari non è così impossibile, no? Quindi anche i miei, dopo questa prima comparsata, si sono un po' convinti, hanno detto, vabbè, provaci, che devi fare, tanto fa, cioè, avevamo visto che ero decoccio, quindi sarei andato comunque. E comunque sì, perché prima a Londra e poi in Corea. Tu sei stato alla fine poi ingaggiato da una boy band coreana, giusto? Cioè, spiegaci bene, sì, poi qual è stata la tua destinazione d'uso? In realtà è stata un'educazione siberiana, perché hai fatto per 6 mesi una vita di merda, possiamo dirlo. Senza materasso, senza mangiare, agli orari. Mangiavi una sola volta al giorno, cioè è una roba tremenda. E cosa mangiavi, scusami, quando eri là? Mangiavamo riso, spam. Sapete cos'è lo spam? È tipo carne, sì, la carne scatola. Tipo la carne scatola. Ancora riso e zuppa di kimchi. Ecco, zuppa di kimchi sempre. Il kimchi è tipo un cavolo fermentato col coreano piccante. Tipo quello tutti i giorni, perché un po' cibo povero, ma immagino i movimenti di pancia, perché scusa, il kimchi fermenta non solo fuori dalla pancia ma anche dentro. Però scusa Marco, la cosa che che ti volevo dire è che noi abbiamo un'idea, secondo me, molto distorta di tutto questo mondo asiatico. Cioè, io quando stavo leggendo il tuo libro, poi un secondo solo, ti ricordo che magari un asiatico pensa all'Italia, poi arriva, vede Usmate e fa: oddio, con tutto rispetto per gli amici di Usmate, sì, non ce ne vogliono gli amici di Usmate. Però uno dice, magari vede Roma, c'ha la cartolina e dice: ah, vado in Italia, Italia, bella, arriva, Usmate. Esatto. Però leggendo il tuo libro e vedendo i tuoi video su YouTube, perché poi il boom è stato quando hai aperto il canale YouTube, hai iniziato a parlare in italiano agli italiani e alle persone che sono curiose di questo mondo, hai abbattuto un po' di stereotipi e ne hai consolidato degli altri. Per esempio, il primo che mi viene in mente, il tuo soprannome è Seul Mafia, quindi appoggiare il termine mafia al paese dove vivi adesso. Perché questa roba della mafia? Ma guarda, sarebbe bello capirlo. Secondo me è perché ogni volta, sai, quando un paese esce a telegiornale o in televisione, di solito è sempre per cose negative. Cioè, io mi ricordo anche che le prime cose che mi dicevano, a parte mafia, era anche bunga bunga, perché in quel periodo c'era anche un po' il bunga bunga. Certo. E quindi era un po' così. Quindi tu arrivi qua e c'è tipo la pizzeria mafia, gelateria mafia, cioè ogni cosa che era associata, ora devo dire un po' meno, sai, forse anche perché ci sono un po' più italiani, c'è un po' più di giro, conoscenza, no? Ma leggendo il libro viene fuori che l'estetica è una delle cose che viene valutata maggiormente in ambito coreano, quindi una frase che mi è rimasta in testa è che la bellezza è effettivamente una scelta, quindi se scegli di essere brutto o di essere trasandato, cioè tu, Riccardo, hai scelto di essere brutto, sì, io ho scelto di essere cioè tu ti sei svegliato una mattina, io Riccardo Poli essere... 32 anni, quello che no, è 38, grazie, so, ti abbassavo, grazie, sei sono da oggi decido che sono brutto, esatto, sì, però è una responsabilità, cioè in Corea, da quanto ho capito, Marco, è proprio una responsabilità essere brutti o essere belli, cioè... sì nel senso, qui tutta la chirurgia plastica, tutto di cui tu hai fatto anche uso, giusto? Sì, cioè mi hanno, diciamo, un po' obbligato all'inizio. Sì. Come obbligato? Perché per contratto in realtà tu devi fare un po' tutto quello che ti dice la tua azienda, quindi se secondo loro ti devi togliere il neo piuttosto che rifare il naso, chiaramente te lo pagano loro, però è uno dei prezzi che devi pagare. Però ripeto, in realtà io conosco gente che fa l'idol o perlomeno è stata trail, no? Il periodo prima, no? Tutto il periodo prima, solo per farsi rifare gratis, no? Perché poi ti paga l'azienda. Marco, scusami, ma quanto è durato questo periodo da incubo rinchiuso in questa società di pop music? Cioè, voglio dire. Allora, in realtà un anno. Sei scappato, ti hanno cacciato, cosa è successo? Allora, in realtà io ho avuto, essendo straniero, ho avuto, perché qui sono molto rigidi per tutti i permessi di soggiorno vari, quindi ci ho avuto i primi problemi con il visto e al posto che risolvere, io ne ho approfittato, sono scappato prima, no? Perché fantastico. Mi sono reso conto che il mio contratto non valeva. Quando ti sei reso conto che avevi firmato un contratto con il diavolo? Con il sangue. In realtà io non me ne so, cioè me ne sono reso conto quando stavo male. Mia mamma cioè è stata male per un anno, perché mi ricordo che era lì che pregava che uscissi, perché lei chiaramente aveva un punto di vista un po' più, sai, esterno, un po' più, io ero un bambino, volevo solamente diventare una star, non me ne fregava niente, cioè avrei firmato qualsiasi cosa. Okay. Diciamo che poi però quando tutto quel mondo fatato che ero immaginato stava un po' sparendo, no? Perché chi chiaramente stava facendo una vita orribile, allora lì ho cominciato a capire che cazzo, ma io devo stare qua 5 anni. Una cosa, ragazzi, ve lo devo dire, mentre leggevo il libro di Marco mi faceva molto ridere, perché Marco nelle prime battute del libro tocca un essere che qui in Italia è intoccabile. Chi sostanzialmente è? Barbara D'Urso. Mi ha fatto molto ridere questa cosa, perché come ripartito pensavo tipo il Papa, no, è il coraggio di chi non abita in Italia, perché dice questa cosa qua. Allora ve lo leggo, perché così almeno non ricevo querele. Il massimo complimento che abbia mai ricevuto nei miei primi 20 anni di vita è stato: sei la versione un po' più carina di Mr. Bean. Un po' più carina, è come dire, sei la versione un po' più scienziata di Barbara D'Urso. Io a questa frase qua stavo volando, perché ho detto vabbè, no, ma Marco idolo totale delle folle. Nel libro viene fuori anche che ci sono delle cose pazzesche in Corea che vorrei un attimo aprire con te. Per esempio, la carta igienica costa un botto. Assolutamente sì. No, cioè, aspetta, no, io voglio sapere di più sulla carta igienica, non solo il prezzo, cioè al di là del prezzo. Allora, che guarda, io mi sono reso conto di quando ho veramente incominciato a, insomma, mantenermi, avere uno stipendio decente dalla mia carta igienica, perché la mia prima carta igienica, quella che ho avuto per i primi 5 anni in Corea, era di un velo, cioè un cazzo di, cioè un velo. Sì, cioè, usavi dei fogli cioè potevi usare dei fogli A4, forse che costavano meno, non lo so, erano anche più resistenti, cioè, forse. Non vorrei entrare nei dettagli, però immaginate. Mi sembra tutto abbastanza chiaro, certo. Sì, no, sì, ma no. L'altra mattina, però, ci hai detto che sulla carta igienica a volte si trovano anche addirittura, come dire, non so, facce di persone. Sì, ma allora io credo che a breve uscirà la carta igienica dei BTS, se non è ancora uscita, perché loro ormai sono veramente ovunque, cioè vitamine ovunque, cioè vedi, ritrovo ovunque, però sì ci sono cagnolini, insomma robe carine, qua il kawaii, insomma la roba carina ce la infilano un po' ovunque, quindi anche sulla carta igienica. Però aspetta, quanto costa? No, non è che andiamo a vedere, che abbiamo ce li abbiamo chiesto, quanto costa? Vuoi sapere quanto costa? Tipo 20 euro, cioè un massato, ma no, quindi insomma non vi pulite il sedere, cioè c'è poco da fare, in estrema sintesi uscite con sporchi o vi fate la doccia, ecco. Ci saranno i doccini ogni volta che... Per comprarla devi comprarla. Okay. E quindi ti tocca. Ragazzi, allora io vi vorrei portare però dalla Corea del Sud alla Corea del Nord. Perché parlando di asiatici, adesso è venuto fuori tra l'altro una notizia che stanno approvando in Corea del Sud una norma per cui le boy band potranno procrastinare l'ingresso nella diciamo leva militare. La norma BTS si chiamerà persino. E tecnicamente la Corea del Sud è ancora in guerra con la Corea del Nord. Tecnicamente. Poi di fatto i confini sono stati messi, cioè, scusami, ci stai dando due notizie tendenzialmente. Sì. La prima è per chi fa del K-pop è come dire, è come quando andavi all'università, è che sollevata la leva militare. Sì, la puoi rimandare, esatto, sì, esatto. E già questa è una roba surreale. E la seconda è che siamo ancora in guerra. Sentiamoci tutti coreani, sì, esatto. Sentiamoci tutti coreani. E quindi ho chiamato il mio amico Antonio Razzi, che in coreano si dice Antonio Razzi. Perfetto, benissimo. Così, il traduttore direi che a sto giro per non sapere come sta, com'è la situazione in Corea del Nord e soprattutto come sta il nostro amico Kim, perché ci siamo preoccupati negli ultimi giorni. Ciao Riccardo. Allora, in Corea del Nord stanno benissimo. Magari fossimo noi in Italia come stanno loro, riguarda il Covid. Il Covid loro già dai primi di gennaio hanno bloccato, non potevano entrare nessuno. Non che normalmente. Quanto riguarda il maresciallo Kim, il leader Kim, sta benissimo. I suoi 36 anni se la porta bene. Insomma, ho visto di meglio. Io spero siamo coscritti di andare sempre con questo famoso gruppo. Se sono circa 50 persone che vogliono andare in Corea, vogliono andare e normalmente l'accompagno io. È chiaro. Sperando che passa via tutto questo Covid, che la vaccinazione ci porta bene a tutti e può stare meglio a tutti noi italiani. E così possiamo andare tranquillamente. Ciao, bene. Buona giornata. Sulle famose spiagge della Corea del Nord. Antonio. Ciao Antonio, grazie del tuo messaggio vocale. Che bello questo, che bello. Quindi vabbè ragazzi, allora vi ho rassicurato, in Corea del Nord tutto bene. Parole di Antonio Razzi, il nostro inviato speciale. Oddio, adesso lui non è là per dire. Adesso lui ti ha mandato un vocale, immagino da, non so da dove abita lui. Da Teramo. Quindi non da Pescara, dalla Corea del Nord. Esatto. Marco, tu una gita in Corea del Nord non l'hai fatta? No. Guarda, a parte che costa un occhio andare in Corea del Nord, perché devi passare per la Cina e poi costa veramente migliaia e migliaia di euro per andare in Corea del Nord. Interessantissimo, però un po' di caca ce l'ho io, sinceramente, proprio in giro lì. Ma invece qualche coreano del Nord l'hai mai conosciuto? Esiste? Cioè, nel senso, com'è la percezione a Seul, tipo? Ci sono tanti rifugiati qua, c'è tanti, ci sono alcuni rifugiati della Corea del Nord che in realtà vengono trattati, cioè il governo gli aiuta a trovare lavoro, piuttosto che comunque gli dà un aiuto economico e psicologico, perché poverini sono un po' traumatizzati. Vengono accolti bene, soprattutto da quelli della tua generazione, della nostra generazione, oppure c'è del razzismo, c'è della xenofobia, c'è della paura, non so? No, devo dire che qui ci fanno un pochino pena, poverini, nel senso che sappiamo che non è colpa loro, anzi, loro vivono sicuramente molto peggio di noi, sono i vertici che sono tutti sclerati, credo che non sono visti bene, perché poi alla fine i coreani del nord di per sé sono solo succubi di questa dittatura. Senti Marco, salutandoci, volevo chiederti un'ultima cosa. Che sul gruppo sanguigno, spero. Esattamente. Ah, okay. Allora, io sono rimasto sconvolto dal fatto che tu consigli, se andiamo in Corea, se mai faremo una gita in Corea del Sud noi di Off Topic, di studiare bene la nostra cartella medica, perché il gruppo sanguigno è molto importante. Sarà una delle prime cose che vi verrà chiesta, perché ogni gruppo sanguigno ha una personalità ben definita. Aggiungeva Longoni, come l'oroscopo. Che cazzo vuol dire, scusa? Guarda, posso dirti una cosa? 8 anni qui e non l'ho ancora capito. Perché, allora, tenete conto che tipo mia mamma non sa che gruppo sanguigno sono, cioè non lo sa. Io sono arrivato non sapendo il mio gruppo sanguigno. E qui rimaniamo tutti sconvolti all'ennesima potenza, perché come fai a non sapere il tuo gruppo sanguigno? Non lo so, però effettivamente se vai tu a cercare su internet le varie personalità in base al tuo gruppo sanguigno, devo dire che ci becca. Scusa, si può dire il gruppo sanguigno di Marco Ferrara? Non so se è un dato sensibile. Non lo sa, l'ha scoperto, cazzo. L'hai scoperto dopo? L'ho scoperto adesso, sì, sono B positivo. E cosa fanno i B positivo di giorno, il pomeriggio? Un più B positivo, forse. E B positivo, ma non ho ancora... Allora, io so che gli AB sono degli sclerati egocentrici, infatti ero convinto di essere AB. Invece i B sono un po' meno, capito? Un po' meno, un po' sì, simpatici, carini, ma niente di che, un po' insipidi. Infatti non sono molto convinto. Forse sei un AB. Cosa sei, Ricky? Io sono zero negativo. Zero negativo come sono visti? Zero negativo è una merda, te lo dico. Grazie, era evidente. Ma era evidente, non c'era. Longhi, tu cosa sei? Non lo sai. Io zero positivo. Ah, che bello. Io posso donare a tutti voi comunque. Io sono perfetto. Aspetta, se stai dicendo com'è lo zero positivo, com'è Longoni? Una merda. Anche lui, tutte e due merda. Allora, qual è quello buono? RH negativo, cioè, scusate. No, è RH. Se sei A e anche B sono io sono A positivo, se vengo in Corea tutto alla grande. Vabbè, pensa al metti, esatto, veramente. Cioè, se trovi una bella coreana, non dirgli che sei zero, cioè fai finta. Faccio di finta di niente, certo, faccio un altro, esatto. Faccio un A negativo. Non ti chiedano la cartella medica. Esatto, però. Esatto. Va bene, allora, grazie mille Marco e in bocca al lupo per tutto. Salutaci Seul quando è possibile, verremo a trovarti. Io spero, non so. Beh, ci proviamo, sì. Ci proviamo, sì, organizziamo. Appena aprono le si può muoversi da casa. Oppure potremmo andare con Razzi nella famosa spedizione in Corea del Nord. Sai che non è male, quei famosi 50. Potremmo pensarci. Alessandro, non so se ti vuoi aggregare. Sì, non è male. Va bene. Allora, grazie, salutiamo Marco, grazie mille. E... ciao Marco, grazie. I nostri contatti. Vai, Longoni. Allora, Off Topic lo trovate su Instagram, Off Topic 24. Siamo su Telegram, il nostro gruppo di discussione, la nostra chat è aperta a tutti, a voi, ascoltatori, eccetera. E ci trovate a Off Topic _ 24 su Telegram. Siamo su Twitch, siamo su YouTube e soprattutto i nostri podcast. Abbiamo fatto un sacco di luoghi comuni, risentitevele. Ah ragazzi, scusatemi, questo è molto importante. No, questa cosa va detta. Se ti trovi in Corea e devi conquistare qualcuno, puoi sempre dirgli: 여러분, 안녕하세요. 저는 긍정적입니다. Ciao a tutti, sono A positivo. Così ti presenti così. Ciao. Ciao. Off Topic. Fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella.